24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7.30 in punto, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta fino alle 9 come di consueto, 24 mattino. E allora il nostro sondaggio di oggi, parliamo di quello che è successo ieri a Roma, un corteo di aquilani che volevano protestare per la dilazione delle tasse dopo il terremoto, è finito con varie manganellate e polemiche. Noi vi chiediamo, secondo voi la protesta degli aquilani era giusta? Fanno bene a protestare? Hanno diritto a portare avanti le loro rimostranze? Certo, poi parleremo ovviamente di come è degenerata, di quello che è successo, le tante polemiche le troviamo anche oggi sui giornali riguardo a questa notizia. Comunque, votate su radio24.it bianco o nero, ne parleremo alle 8.30 e come detto questa notizia è anche l'apertura di molti giornali oggi in edicola. In primo piano. Giovedì 8 luglio e allora, come detto, questa notizia degli scontri ieri a Roma, il corteo degli aquilani, ma anche la manovra. Ovviamente la manovra tiene banco quotidianamente, il Sole 24 Ore apre su questo con la novità di un emendamento che fa molto discutere, più tasse sulle assicurazioni e nei tribunali civili corsie preferenziali e ausiliari contro gli arretrati. Il Corriere della Sera, cifre della manovra intoccabili, questa è l'apertura, ma attenzione, il Corriere della Sera ha anche un'intervista esclusiva fatta al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, l'ha fatta Paolo Valentino, un colloquio di un quarto d'ora con il presidente americano nello studio ovale della Casa Bianca, certamente lo vedremo. E poi i terremotati, la Repubblica, la rabbia dei terremotati, incidenti e feriti a Roma. Per la stampa, in piazza l'ira dei terremotati. Il giornale Libero sono molto duri. Il giornale dice usano i terremotati, assalto a casa Berlusconi, mentre per Libero i terremotati no global. Il Manifesto invece mette una foto di un giovane con una maglia insanguinata, zona rossa, mentre l'Unità mette il volto, una delle foto già diventate simbolo di questa manifestazione, il volto completamente insanguinato di un ragazzo che evidentemente è uno di quelli che ha preso le manganellate. Fine della fiction, questo è il titolo dell'Unità. E il Riformista finisce a botte, giornata di scontri politici e non. Allora, come detto, partirei proprio da questa vicenda degli aquilani ieri in protesta, perché è il nostro sondaggio, poi ha dato spunto veramente a molti commenti che trovate sulle prime pagine dei giornali, molto duro Francesco Merlo in prima pagina su Repubblica, che si chiede ma perché sono stati mobilitati i reparti antisommossa per fermare un corteo di terremotati pacifici, senza black bloc, senza giovani rivoluzionari armati di estintori. Le immagini in diretta della benemerita Sky, che non è certo una riedizione di Telekabul, ma soltanto si limita a non applicare il codice Minzolini, hanno fatto vedere in maniera inequivocabile che la marcia degli aquilani a Roma era al tempo stesso popolare e ragionevole. Di sicuro, tra molte donne e tanti anziani, non c'erano i professionisti del passamontagna. Niente sbarre e bastoni, niente bandiere rosso, neppure ghigni e grugni di facinorosi. Eppure è finita così. C'è da dire che invece il questore di Roma ha detto c'erano persone che conosciamo, che già in passato si sono distinte per questi motivi, insomma, di un intervento duro, di scontri anche con aree, diciamo, estreme. Il giornale, come detto, è molto duro dall'altra parte, come Francesco Merlo, ma a difendere la situazione è Alessandro Sallusti, il condirettore del giornale, che firma in prima pagina il titolo dell'editoriale, è Assalto a casa Berlusconi, come detto. Le foto di... e ce l'ha molto col sindaco Cialente, il sindaco dell'Aquila. Le foto di due ragazzi con la faccia insanguinata per le ferite lievi, conseguenza della rissa per forzare i blocchi delle forze dell'ordine. Questa è l'immagine dell'Italia che Massimo Cialente, sindaco di sinistra dell'Aquila, consegna ai circuiti internazionali dell'informazione. Per lui operazione riuscita, uno Stato cinico e violento che bastona terremotati disperati. Ovviamente non è così, scrive Sallusti. Cialente ha preso 5.000 aquilani, li ha portati nella capitale, li ha scagliati contro l'abitazione privata del Presidente del Consiglio, Montecitorio, Palazzo Madama, il corteo non era autorizzato, carabinieri e poliziotti non hanno potuto far altro che difendere come hanno potuto gli obiettivi dell'assalto. E insomma, come al solito, le due verità. Il giornale poi racconta di chi è rimasto in Abruzzo e dice: questa ricostruzione è bloccata dal comune, questa manifestazione non ci fa onore. Sta di fatto che il sindaco Cialente fa un paio di interviste all'Unità e al Manifesto. All'Unità dice: picchiati senza ragione, il percorso era concordato, mentre al Manifesto dice: che razza di giornata è stata, l'anno scorso c'erano Carlà e Michel da noi e sembravamo il cuore dell'Italia, un anno dopo siamo qui a prendere le botte. Questo dice al Manifesto. Sarà nostro ospite il sindaco Cialente, tra gli altri ci racconterà alle 8.30 che cosa è successo. Anche Libero, con Maurizio Belpietro, contro Silvio vale tutto, usati anche i terremotati. Come vedete, è una vicenda che certo ha fatto molto scalpore, fa molto discutere. Di certo, di fatto, questo è il mio parere, vedere dei terremotati che sfilano a Roma per chiedere dei diritti e che si prendono delle manganellate. Poi si sa, nelle manifestazioni di ordine pubblico basta un niente per far degenerare magari la situazione, ma non è certo un bel vedere. Ecco, mettiamola così, non è certo quello che si spera che debba capitare, visto che non era certamente una manifestazione, che ne so, di Black Bloc. Questo almeno possiamo tutti essere d'accordo. Allora, che dire, la manovra continua a fare i suoi passi. La novità dal punto di vista del rapporto Regioni-Berlusconi è che ieri c'eravamo lasciati dicendo: Berlusconi vedrà le regioni, domani vedrà le regioni. E dunque anche il Foglio in prima pagina dice: le regioni verranno viste da Berlusconi, e ecco perché il Cavaliere accoglierà i governatori con una tenue linea tremontiana, anche se il leitmotiv della manovra è sempre questo: i tagli non si toccano. Ancora Tremonti è continuato a dire e continua a dire: i saldi sono quelli, i tagli vanno fatti. La novità che viene messa in prima pagina del Sole 24 Ore e che è la novità più interessante e che fa discutere è questo: un emendamento più tasse sulle assicurazioni. Ne parla poi Marco Mobili a pagina 3. IRES pesante per le assicurazioni, una stangata da 234 milioni di euro l'anno sulle imprese di assicurazione. E il primo appuntamento alla cassa è già fissato al prossimo 30 novembre. Col secondo acconto IRES 2010, le società di assicurazione dovranno garantire all'erario non meno di 88 milioni di euro. E questo è il frutto di un emendamento in cui hanno trovato posto anche misure fiscali per imprese e autonomi. E che cosa viene? Cosa prevede questo emendamento? Viene fissata nel 10% la quota di indeducibilità delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie del ramo vita, una misura che, secondo la relazione tecnica che accompagna l'emendamento Azzolini è il relatore della manovra, consentirà appunto un recupero di base imponibile di circa 850 milioni di euro, cui applicare un IRES del 27,5%, il che si traduce con un gettito quantificabile appunto in 234 milioni di euro, di cui 88 dovrebbero essere dati già col secondo acconto IRES 2010. Certo, questa è una novità. Ogni giorno la manovra regala qualche novità con qualche emendamento. Come detto, c'è sempre la tensione con le regioni, che dicono ancora oggi: ho visto Formigoni, ha fatto un'intervista a Libero, fa interviste ovunque, ma tutti i governatori, la Polverini che ieri ha fatto un'intervista al Sole 24 Ore, oggi fa un'intervista al Corriere della Sera, al Sole 24 Ore intervista Scopelliti, cioè il presidente della regione Calabria, tutti a lanciare questo allarme. Un altro tema che certo fa molto discutere e che è il tema annoso della questione rapporti nord-sud o meglio Nord Roma, lo trova spazio oggi su Libero. A Roma 50 milioni, sindaci del Nord pronti a dimettersi. La vicenda è questa: c'è appunto un emendamento che racconta Francesco Specchia. Gianni Alemanno, sindaco della capitale, nei confronti di Tremonti deve esercitare doti taumaturgiche. Il Parlamento ci deve ascoltare. A Roma servono altri 50 milioni di euro per evitare di aumentare l'IRPEF. Questa aveva detto Alemanno il 22 giugno. L'hanno ascoltato e voilà, altri 50 milioni all'URBE. E allora scrive Libero a pagina 8, i sindaci del nord sono infuriati. Al primo posto c'è Attilio Fontana, sindaco di Varese, ma è presidente anche della conferenza dei sindaci lombardi ed è un leghista doc, che dice: io spero non sia vero, o prendo e mi dimetto. Così dice Attilio Fontana. Sta di fatto che questo rapporto nord-sud, o meglio Lega-Roma, sta creando un pochino di tensioni, tanto che l'altro sullo sfondo di tema, e dico sullo sfondo perché poi se ne occuperà alle 9 Oscar Giannino e 9 in punto, è quello del rapporto, del salvataggio, della trattativa tra Unicredit e Roma. Roma nel senso di Roma Calcio. Proprio oggi alle 18 si dovrebbe mettere la parola fine a questo travagliato processo arbitrale molto lungo per la cessione della Roma a Unicredit. E nei giorni scorsi Luca Zaia, il governatore del Veneto, ha detto una frase del tipo: Unicredit invece di dare soldi alla Roma Calcio die soldi al Nord. Oggi Alemanno, o meglio ieri Alemanno, si è molto adombrato, si è detto: la Lega deve stare zitta perché si deve ricordare che Unicredit nasce anche dalla fusione della Banca di Roma, quindi di fatto Unicredit sta facendo semplicemente il suo mestiere. Allora sullo sfondo c'è questa tensione, oggi Oscar Giannino ne parlerà, che non vuol dire parlare di calcio, vuol dire parlare di calcio economia, di calcio e banche, di nord sud, di Lega e di Roma. Ladrona? Metto il punto di domanda, per carità. Ladrona col punto di domanda. Riguardo appunto la manovra, il Corriere per esempio racconta riguardo a questi comuni, no? E agli enti locali, alle regioni che protestano, ai comuni che protestano, racconta il paradosso del comune modello di Seriate, gestito da una siciliana maleghista, del siciliano d'origine maleghista doc, Silvana Santisi Saita, eletta dalla Padania come l'amministratrice perfetta, colei che dice: io ho 13 milioni di tesoretto pronto da spendere per essere investiti in opere pubbliche e servizi della comunità, ma il patto di stabilità me lo impedisce. Allora si chiede questo sindaco di Seriate: io ho risparmiato su tutto, abbiamo tagliato, noi della giunta guadagniamo 400 euro se abbiamo un altro lavoro, non ho i semafori furbi, non ho vessato cittadini, eppure la sicurezza e la viabilità finanziamo tutto lo stesso, non abbiamo consulenze esterne se non quelle degli avvocati per le cause ovviamente, eppure siamo castigati allo stesso modo di chi accumula buco su buco. Questo è inaccettabile. Ecco qui, allora racconta il Corriere della Sera il paradosso del comune modello di Seriate. Ho i conti in ordine, dice il sindaco, ma non posso fare il mutuo per la scuola. Un'altra vicenda che trovate sulla manovra è quella delle quote latte. Che è successo? Un altro emendamento. Anche qui un emendamento che propone di posticipare il pagamento delle annose quote latte. Io l'altro giorno ero in centro a Milano, o meglio vicino alla sede della regione, ho visto tutti questi trattori che bloccano, che sono a Milano da qualche giorno, vanno e vengono e bloccano la viabilità, e sono i coltivatori che protestano. O meglio gli allevatori che protestano contro le quote latte, 1,7 miliardi che dovremmo pagare, è arrivato l'emendamento per posticipare, dilazionare la prima rata. Il ministro Galan al Sole 24 Ore a pagina 5, in intervista a Carmine Fotina, dice: ora basta, o cambiamo questo emendamento oppure sono pronto a dimettermi. Ecco una nuova grana all'interno della maggioranza. Se la maggioranza di governo di cui fai parte si esprime contro di te, non ti resta che fare una cosa. Così dice Galan. Non chiedete a me come è nato questo emendamento, sono stato in commissione al Senato, nessuno mi ha consultato, non so niente di possibili patti, non so se c'è dietro la Lega, non mi interessa. Lo Stato italiano ha già pagato 1,7 miliardi in mancati trasferimenti dall'Europa che li trattiene a fronte delle multe non pagate, con un ulteriore rinvio scatterebbe la procedura di infrazione. Insomma, basta, bisogna pagare, dice Galan, altrimenti io lascio e mi dimetto. Insomma, altre grane insieme a quella di Berlusconi Fini. Trovate ancora il fotoromanzo, sembra Berlusconi. La linea nuova sarebbe: Fini non esiste più. La linea data ai colleghi di partito, lasciate stare. Poi c'è tutta la questione anche di Napolitano, si è molto adombrato Napolitano per questa vicenda di un emendamento, o meglio di una proposta di legge del PD che voleva allargare lo scudo processuale anche al Quirinale, poi la vicenda è stata tirata fuori dal Fatto Quotidiano due giorni fa, hanno fatto marcia indietro quelli del PD, ma certo anche ieri il giornale diceva: perché qualcuno del PD vuole uno scudo al Quirinale? Cosa avrà mai fatto Napolitano di così inconfessabile per cui bisogna scudarlo? E si è molto adombrato il Quirinale, una nota che è finita in prima pagina sul giornale e anche sul Fatto, dicendo: il Quirinale non ha nulla, non c'entra nulla con questa vicenda. E Feltri e anche il direttore del Fatto, Antonio Padellaro, che si sono arrabbiati a dire: sbaglia bersaglio il Presidente della Repubblica, noi abbiamo solo raccontato dei fatti, e cioè che c'era questa proposta di legge del PD che poi è stata ritirata. Non capiamo, dice sia Vittorio Feltri sul giornale sia Antonio Padellaro sul Fatto, perché Napolitano se la debba prendere con chi ha raccontato delle notizie. Ma ora, dopo il traffico, voglio ripartire dalle altre incredibili botte che ci sono state ieri a Roma, all'interno del Parlamento. Pugni e risse. In primo piano, una rissa da saloon dei film western. Così ieri è successo al Parlamento. Al grido di "motte meno" è iniziata una bagarre incredibile, finita con 15 giorni di prognosi, pressione a 200, cefalea post-traumatica, 5 minuti di caos totale per il pugno l'ha preso l'onorevole Barbato, che abbiamo sentito ieri alla Zanzara, oggi nel GR dell'Italia dei Valori. E allora io voglio leggere dal Corriere della Sera. Allora, si discuteva un disegno di legge del ministro Meloni, Giorgia Meloni, che eroga fondi ad associazioni che lavorano con giovani under 35. Poi, tra l'altro, un DDL che è stato anche contestato da colleghi di partito, è stato, credo, affossato, comunque ha avuto dei problemi. Ma questo è ormai è finito in secondo piano. Perché quando c'è questa discussione, ecco, prende la parola l'onorevole Barbato dell'Italia dei Valori e dice: ho l'impressione che lei, ministro Meloni, voglia finanziare la sua corrente, quella di Alemanno, del suo assessore regionale Lollo Brigida, che gestirà questi fondi, suo parente. Questa vecchia politica fa rabbrividire Pomicino e Mastella. Lei è vecchia. A quel punto si scatena la bagarre. Leggo dallo stenografico della Camera. Saltamartini, onorevole Barbara Saltamartini, si avvicina animosamente ai banchi dell'Italia dei Valori, trattenuta dai commessi. Scambio di apostrofi tra Saltamartini e Barbato. La Saltamartini si avvicina al grido di "motte meno", parole che poi smentisce, non è nel mio linguaggio, mentre riferisce gli apostrofi di Barbato: mafiosa, camorrista, ladra, vergognati, fai schifo, vai a farti coccolare da Berlusconi. Barbato racconta di una deputata bionda che gli urla: ti faccio un culo così, ti aspetto fuori. Il PDL Maurizio Bianconi è più sintetico: pezzo di merda. Lo stenografico ancora: l'onorevole Dima si avvicina ai banchi dell'Italia dei Valori, scambio di apostrofi tra Dima e Zazzera, che entrano in contatto fisico. Bianconi, Rampelli e De Angelis si avvicinano animosamente ai banchi dell'Italia dei Valori. La Mussolini denuncia: mi minacciano. Ma chi è il proprietario della mano pugnace che ha dato un pugno nell'occhio? A Barbato qualcuno dice testimonianze convergono su l'onorevole Nola. In un'intervista ricostruisce così il suo passato nel fronte della gioventù. Botte? Tante. Prese o date? Soprattutto prese. Ero al pronto soccorso, ero di casa. Cicchitto si infuria, prende i suoi e dice: ma che fate? Rimprovera Marcello De Angelis, cantautore rugbista, un passato nel Fuan e qualche mese in cella, ora è direttore di area ma non ha perso la carica, strattona ma nega Cicchitto. Poi chiede scusa a lui ma non a Barbato, anche Gandhi si sarebbe incazzato. E poi insomma, ma che è successo un gran casino, picchiati, botte in aula, deputato Italia dei Valori in ospedale, questo sulla Stampa. Eccolo qui, l'onorevole Carlo Nola, quello che ha accusato di aver dato probabilmente il pugno. L'ha dato lei? Dicono che sia stato lei, avranno i loro motivi per dirlo. Io mi rimetto all'ufficio di presidenza che farà la sua indagine. Ma lei che ha fatto? Io mi sono avvicinato per capire, ho sentito quello che diceva Barbato, non si insultano così le signore, e così che ha fatto? Ma gli ho dato uno schiaffetto. Uno schiaffetto di cui mi pento, ma non lo scriva, che mi danno la sospensione. Giorno di ordinaria rissa nell'aria condizionata, mentre fuori a 40 gradi c'erano le manganellate ai terremotati. Allora, come detto, il Corriere della Sera intervista un colloquio di un quarto d'ora, per la verità, di Paolo Valentino, il presidente americano Obama, pagina 2 e 3. L'incontro nello studio ovale della Casa Bianca, si parla di Afghanistan, diciamo due o tre temi toccati, perché in un quarto d'ora il tempo ovviamente è poco. Sull'Afghanistan, dice Obama, voglio ringraziare intanto il contributo italiano col presidente, col primo ministro Berlusconi, alleato conseguente e coerente. Non ci sono soluzioni semplici o facili in Afghanistan, il fatto è che ci vuole tempo, ma abbiamo certo messo Al-Qaeda in rotta col nostro intervento. Ma poi l'intervento più significativo è quello sulla Turchia. Sulla Turchia, paese di enorme importanza strategica, dice Obama al Corriere, da sempre crocevia tra est e ovest, un alleato della NATO, economia in grande espansione. E dico, abbiamo sempre espresso l'opinione che sarebbe saggio accettare la Turchia a pieno titolo nell'Unione Europea. Ecco la cosa più importante che dice in questo colloquio Obama. Riconosco che questo sollevi sentimenti forti in Europa, ma non penso che il ritmo lento o la riluttanza europea sia il solo o il predominante fattore alla radice di alcuni dei cambiamenti di orientamento osservati di recente nell'atteggiamento turco. Insomma, dice Obama, sia la Turchia nella Casa Bianca, nell'Unione Europea. Comunque questo colloquio a pagina 2 e 3 del Corriere lo trovate. Che dire, voglio concludere a proposito di America, mi ha molto colpito, sono andato a vedere ieri il video, questo è giusto per concludere, Lindsay Lohan che è stata condannata perché era stata presa a guidare ubriaca, doveva fare un corso dall'Alcolisti Anonimi, non ha rispettato. Che si fa in America in questi casi? Si prende Lindsay Lohan, la si porta in tribunale. Lindsay Lohan, insomma, è cantante, famosa, anche attrice, ribelle, no? La si prende, la si processa e gli si dà 90 giorni di carcere. E c'è poco da fare, cioè Lindsay Lohan si è presentata con un'unghia con cui c'era scritto fuck you, che vuol dire, insomma, vabbè, fottiti al giudice, solo l'ha scritto sull'unghia, ma si è beccata 90 giorni di carcere perché non ha rispettato i corsi degli Alcolisti Anonimi, perché non si è presentata, perché gli ha messo un braccialetto per controllare l'alcol nel sangue e hanno visto che ha bevuto ancora, e quindi il 20 luglio si presenterà in carcere e dovrà fare 90 giorni. Se si sbaglia, si paga negli Stati Uniti. Allora il GR, votate il sondaggio, parliamo dell'Aquila alle 8.30. Alle 8.18 minuti, eccoci nuovamente in diretta con 24 Mattino con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah. Buongiorno. Buongiorno. Domanda. Tu come dici, i pneumatici o gli pneumatici? Oh mamma mia. Qual è l'articolo giusto? No, perché a me naturalmente viene da dire gli pneumatici, poi ieri abbiamo fatto delle lunghe ricerche. C'è Sara che mi fa mi suggerisce come alle medie, ma non, ecco, dall'altra, sì, parte. Ecco, ma non, adesso ma non mi metto la nota perché vedo che lei suggerisce durante l'interrogazione. 5, non lo so. Lasciamo stare, guarda, lo chiariamo non domani mattina, lunedì mattina magari. Scherzi a parte, quando si parla della manutenzione della nostra auto e quindi anche delle gomme, bisogna essere molto seri. In particolar modo d'estate, quando in tanti si mettono in viaggio e i pericoli sulle strade triplicano. C'è una campagna, si chiama Vacanze Sicure, che ha visto impegnate Assogomma e il servizio Polizia Stradale in un progetto di controllo sullo stato degli pneumatici, ma anche di sensibilizzazione alla sicurezza attiva. Tra poco a Roma, proprio questa mattina, verranno presentati i risultati di questo progetto. A parlarcene a Soldi e Dintorni stamattina abbiamo due ospiti. Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia Stradale. Dottor Sgalla, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. È un ritorno quello di Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Buongiorno. Buongiorno a tutti, anche a lei. Dottor Sgalla, inizio subito da lei. Per la campagna Vacanze Sicure, la Polizia Stradale è stata impegnata in quasi 10.000 controlli che hanno riguardato un numero limitato di regioni. Come sono stati svolti? Quali sono state le regioni interessate? E soprattutto, quali sono stati i risultati più importanti? Sì, comunque campione significativo perché abbiamo coinvolto circa 5 compartimenti, quindi 5 regioni, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Puglia, quindi uno spaccato sicuramente del nostro paese. La campagna sarà condotta nei mesi di aprile, maggio e giugno, diceva lei oltre 10.000 controlli. Il dato, un primo dato confortante, che sicuramente rispetto a un'analoga campagna che è stata fatta nel 2003, le vetture che sono state trovate con pneumatici lisci o comunque fuori norma sono diminuite. Oggi abbiamo una percentuale che è compresa tra il 3 e il 5%, allora nel 2003 quando fu fatta l'altra rilevazione viaggiava tra l'8 e il 10%. Quindi oltre più, praticamente dimezzata. Dottor Sgalla, 5 regioni, dicevamo, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Puglia, scelte per quali caratteristiche? Ma sicuramente sono regioni ad altissima densità di veicoli, uno spaccato dell'Italia, nord, centro e sud, regioni dove transitano, lei pensi tra l'Emilia Romagna e la Toscana, transita la vita del paese, la vita economica, i mezzi pesanti, il trasporto merci, i mezzi leggeri, dove viaggia il turismo, l'Emilia, la Riviera Toscana, la Versilia, la Riviera Romagnola, il Veneto, il Trentino Alto Adige, quindi sicuramente regioni che assumevano e assommavano a tutte le caratteristiche che a noi servivano per avere una quantità di veicoli di tipologia, dicevo prima, dal traffico pesante al trasporto merci al trasporto commerciale, ai camper, quindi tutti i veicoli che sono dotati di gomma e chiaramente un quantitativo estremamente significativo. Certo. Dottor Bertolotti, vengo a lei perché naturalmente come sempre ci aiuta nella lista dei suggerimenti pratici da dare ai nostri ascoltatori. Molti sono papà di famiglia, sono sicura che tutti sono attenti alla qualità delle gomme della propria auto prima di mettersi in viaggio soprattutto, ma magari qualcuno in maniera molto così, non dico leggera e neanche trascurata, ma insomma dice ho fatto un controllo 15 giorni fa, un mese fa, magari non lo rifaccio prima di mettermi in strada. E magari in questo frangente possono già anche essersi leggermente consumate, tagliate da una parte. Prima di partire è sempre bene farlo, un controllo. Ma ci sono dei parametri da tenere sotto osservazione che ci permettono di capire se le nostre gomme sono eccessivamente consumate e come tali non tanto pericolose, ma addirittura fuori legge, perché è così che ad un livello insomma di consumo vanno anche definite. Bertolotti. Ma innanzitutto occorre verificare, ma va fatto fare da soggetti specialisti, quindi da gommisti, da gente che si occupa tutti i giorni di questo prodotto e quindi è in grado anche di fare delle valutazioni che un non tecnico non è in grado. Certamente i pneumatici devono essere con uno spessore di battistrada superiore al 1,6 mm per poter essere conformi al codice della strada. Nascono con uno spessore che è attorno agli 8 mm, parliamo di pneumatici vetture estivi. Per le moto invece la profondità di scolpitura deve essere superiore al millimetro. Avere pneumatici lisci certamente crea problemi sia in termini di prestazioni, ma soprattutto si allunga la frenata a maggior ragione in caso di un improvviso acquazzone. Quindi questo è un aspetto importante. Altro aspetto fondamentale che proprio grazie ai controlli è in forte decremento è il fenomeno dei pneumatici non omologati. Con la liberalizzazione dei mercati sono cominciati a circolare pneumatici non conformi, non omologati, quindi non controllati da un'autorità competente. Pensate che solo nel qualche anno fa a Milano su 5.000 moto il 20% e soprattutto scooter avevano pneumatici non omologati. Oggi questo fenomeno è praticamente azzerato. Comunque rientrato in un percentuale al di sotto dell'1%. Io ho un minuto e mezzo di tempo e quindi devo dividerlo in due, Bertolotti, prima di ritornare al dottor Sgalla, con l'estate. Le misure di sicurezza e di controllo dei nostri pneumatici vanno rafforzate perché qua insomma c'è anche il surriscaldamento che provoca forse qualche pericolo in più, quindi qualche necessità di controllo in più. Ma certamente occorre innanzitutto ripristinare la pressione di gonfiaggio, cioè se i pneumatici non sono sufficientemente gonfi si produce un surriscaldamento interno della gomma e a maggior ragione in stagioni come quella calda possono, se portate all'eccesso, quindi un sottogonfiaggio da un lato, una temperatura elevata dall'altra, possono portare addirittura al cedimento strutturale in marcia, quindi allo scoppio. I pneumatici non scoppiano, scoppiano se non sono opportunamente manutenuti. In questo momento siamo in estate, però molti abbiamo verificato dai controlli proprio fatti dalla polizia stradale in questa occasione, sono almeno un 10% le vetture che circolano ancora con pneumatici invernali. occorre ritornare a mettere le scarpe giuste per la stagione. Giusta. Grazie. Dottor Sgalla, un ultimo commento anche con lei prima di salutare i nostri ascoltatori. Alla luce dei risultati di questi controlli, in dati in percentuali, ce lo diceva, sembrano confortanti, e quindi in quest'estate 2010 qual è la situazione della sicurezza delle strade italiane? Possiamo partire tranquilli? Sì, credo che la partenza tranquilla dipende molto dall'utente, quindi non solo controllare i pneumatici sicuramente, controllare il veicolo nel suo insieme, essere in buone condizioni fisiche quando si mette alla guida, non bere sicuramente quando si marcia, avere attenzione a portare a bordo acqua, specialmente per chi fa lunghi itinerari e ha bambini a bordo, preferire le ore più fresche. Ecco, io credo che la sicurezza è un bene di tutti. Un bene singolo e un bene collettivo, non è un problema di sanzioni, non è un problema di repressione, lo è, ma in parte minima, è di prevenzione e di responsabilità personale. Esatto, qualche volta insomma per la corretta prevenzione bastano delle normali regole di buonsenso, non c'è bisogno neanche di strafare. Io vi ringrazio molto entrambi, magari torneremo a risentirci quando il periodo insomma di traffico sulle strade si farà ancora più intenso, per tornare a richiamare l'attenzione su questi aspetti così importanti. Grazie molte a Roberto Sgalla, direttore del servizio polizia stradale, e a Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Devo ridare subito la linea ad Alessandro Milan. Eccoci. Per parlare alle 12 di vacanze, vediamo un po' in Grecia e in Spagna, per chi vuole andare, che cosa troverà quest'anno con la crisi economica di questi paesi, prezzi stracciati oppure no? Vedremo. Intanto, grazie Deborah, domani non ci vedremo perché c'è lo sciopero. Non ti stracciare le vesti. No. E allora, noi parliamo di quello che è successo ieri, il corteo degli aquilani a Roma, finito anche con qualche manganellata nel nostro sondaggio di oggi. 800240024, vi chiediamo, secondo voi gli aquilani hanno ragione a protestare? Alle 8.33 minuti ben ritrovati da Alessandro Milan, parliamo di quello che è successo ieri a Roma con le proteste da parte del corteo degli aquilani, dei terremotati che erano arrivati a Roma per protestare e che è finito anche in manganellate. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Le foto le vedete su tutti i giornali, la foto per esempio di un ragazzo col volto completamente insanguinato. Di certo sono foto che vanno iscritte nella storia di questa tragedia del terremoto e sono foto che ricordano quello che è successo ieri a Roma. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha detto: un'intera città è venuta qui a chiedere aiuto e ha preso le botte. Quello che vi chiediamo noi è se secondo voi gli aquilani, se secondo voi i terremotati hanno diritto a protestare, cioè se si sentono come dire trascurati, se non è stato fatto e non viene fatto abbastanza per loro. Però certo si voleva parlare anche dei motivi della protesta, ma è chiaro che, come dire, la questione di ordine pubblico a questo punto viene prima, cioè quello che è successo ieri, quegli scontri. Io voglio salutare l'onorevole del Partito Democratico Giovanni Lolli. Buongiorno onorevole. Buongiorno, chiedo scusa per la voce perché lei era lì. Intanto mi faccio salutare anche il senatore Andrea Pastore del Popolo della Libertà. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei, ascoltatori. Siete entrambi abruzzesi, Giovanni Lolli è aquilano. Chiede scusa per la voce, lei era lì. Tra l'altro il sindaco Cialente in un'intervista dice: mi spiace soprattutto per lui che si è preso una manganellata. Allora onorevole Lolli, con la voce che ha, ci racconti intanto che è successo e che idea si è fatto lei di quello che è successo ieri in piazza? Guardi, io non vorrei certamente drammatizzare le manganellate che ho avuto io, e mi dispiace in particolare per quei due ragazzi. Certamente non è stato bello venire democraticamente, civilmente a Roma a protestare ed essere accolti dalla polizia in stato di sommossa. Preciso però che non me la prenderò mai con quei poliziotti e quei carabinieri, i quali stavano lì a fare il loro dovere. E tra l'altro in un momento per loro molto difficile, visto che la finanziaria colpisce anche loro. Ma me la prendo un po' con il governo, che mi sarei aspettato avesse interloquito con i terremotati piuttosto che messi di fronte, diciamo, a questa prova di forza. Ma al di là di questo, io vorrei che fosse chiaro il motivo, prima di tutto il carattere unitario di questa proposta, non politico. La manifestazione era indetta da tutto il Consiglio Comunale, aveva aderito la Regione, la Provincia, tutti i comuni. E poi vorrei che fosse chiaro il motivo. E se è possibile vi vorrei raccontare una cosa. Sì. Guardate, noi vogliamo essere trattati per le tasse, come sono stati trattati gli altri vi racconto come è stato trattato il Molise, il terremoto di San Giuliano, vi ricordate di qualche anno fa? Quel terremoto che colpì fondamentalmente un piccolo centro, quando intervenne la regione, successivamente la protezione civile, il cratere fu esteso a tutta la regione Molise. Sì. E tutta la regione Molise non ha pagato le tasse per 5 anni. Ed è stata, queste tasse non pagate sono state poi dal governo richiamate indietro 12 anni dopo al 40%. Sì, perché esatto, chiariamo il motivo della protesta è questo: voi chiedevate sostanzialmente intanto la proroga della sospensione per tutti delle tasse, la restituzione al 40% delle tasse dovute. Credo che ieri in serata, anzi sicuramente c'è stata una rassicurazione sul fatto della dilazione delle tasse, cioè si restituiranno invece che in 5 anni, in 10 anni, però si restituirà al 100%, questo ha detto Gianni Letta, e su questo so che il Partito Democratico è molto arrabbiato. Però onorevole Rolli, io le devo chiedere questo: alcuni giornali, come il giornale Libero per esempio, il giornale è molto duro a dire il sindaco Cialente, ecco cosa ha fatto, ha portato in piazza persone cercando di sfidare la forza pubblica, portandole sotto Montecitorio, Palazzo Madama, in un corteo non autorizzato. La polizia che doveva fare e ha consegnato, usando i terremotati, ha consegnato questa immagine di uno stato brutale che reprime i terremotati. Ma chi conosce il sindaco Cialente può semplicemente sghignazzare a vederlo come una specie di terrorista agitapopoli. Lasciamo perdere, la politica non c'entra niente, non ci deve entrare niente, stiamo parlando di problemi serissimi sui quali tutti insieme, il paese tutto insieme, si deve interrogare e deve cercare di intervenire. E che i terremotati sono costretti a protestare, non lo fanno con piacere, mi creda, perché ci abbiamo, perché sono terremotato anch'io, ci abbiamo tanti, non abbiamo più la casa, abbiamo avuto i morti, molti di noi non hanno più lavoro, abbiamo problemi più seri che non quello di venire a protestare. Se siamo costretti a venire a protestare è perché solo così possiamo richiamare l'attenzione di tutto il paese. Le vorrei far presente che 15 giorni fa ad Aquila c'è stata una grande manifestazione pacifica con 20.000 persone in piazza, che qualche giorno dopo c'è stato un consiglio comunale aperto, unitario, fatto a Piazza Navona. Stiamo cercando di far capire a tutto il paese, non a Berlusconi, a tutti, a tutte le forze politiche, a tutto il Parlamento, che non possiamo essere abbandonati, che è sbagliata questa idea che c'è in Italia, secondo la quale il problema dell'Aquila è risolto. Credi a me, non è risolto. Allora, come si dice, è l'onorevole Giovanni Lolli, la voce è molto, molto, è stata lasciata molto anche nella manifestazione, insomma, so che ha gridato molto, è successo anche questo episodio di qualche manganellata, ma è l'onorevole Giovanni Lolli del PD. Intanto io vorrei andare dal senatore del Popolo della Libertà, anche lui abruzzese, Andrea Pastore, a capire se secondo lei è, come dice Giovanni Lolli, cioè una manifestazione unitaria, una manifestazione non politica, una manifestazione per gli abruzzesi a dire non dimenticateci, terremotati non dimenticateci, o se invece lei legge da una lettura anche politica e di strumentalizzazione, come fanno per esempio il giornale Libero oggi. Ma guardi, io sono molto amareggiato e anche preoccupato, perché è indubbio che il periodo emergenziale è stato superato in maniera assolutamente positiva, data la situazione di partenza, riconosciuta da tutti, nonostante i polveroni su protezione civile e altro. Credo che sia stato veramente un esempio che in Italia non si è mai verificato e che mi auguro non si verificherà, perché non si debbano verificare, non si verificheranno tragedie come quella, però è un precedente assolutamente importante. Forse proprio l'efficienza nell'emergenza, non tanto le parole dei responsabili, perché tutti hanno sempre indicato come la ricostruzione fosse il passaggio più complicato, più difficile, più complesso, perché tra l'altro deve coinvolgere tutti i responsabili del governo locale e nazionale, ma soprattutto del governo locale quando si tratta di ricostruire una città. Dicevo, soprattutto la soluzione dei problemi dell'emergenza ha generato un'aspettativa di ripresa subito dell'attività normale, che è un'aspettativa purtroppo che lascia il tempo che trova, che naturalmente di fronte alla realtà ha provocato delle legittime reazioni. C'è stata una reazione molto pronta e che ha creato delle aspettative, adesso magari sembra. Però un po'... guardi, io devo anche dire questo, io ritengo che le manifestazioni siano senz'altro determinate da motivi personali, del tutto, ripeto, legittimi, anche se magari non posso condividere le modalità. Però voglio anche dire che c'è una chiara strumentalizzazione politica e c'è anche una disinformazione, perché ieri, quando i terremotati erano a Roma, la Commissione Bilancio già il giorno prima aveva approvato, dato il sì a un emendamento che prorogava il pagamento e il rimborso delle tasse sospese al 1 gennaio, a fine anno, invece che a luglio. Però, per esempio, aveva dato anche il sì a una norma sulla zona franca urbana, della quale naturalmente gli aquilani, alla quale gli aquilani tengono molto, perché una prospettiva, rappresenta una prospettiva di ripresa, con un potenziamento del finanziamento. Però mi scusi, senatore, queste notizie non sono trapelate, è trapelata solo, infatti oggi si parla dell'unico punto che è rimasto in piedi, cioè quello della riduzione. Infatti, io le volevo fare, però mi scusi, le volevo fare una domanda su questo. Se negli altri casi, come il Molise, come l'Umbria, la restituzione, senatore, mi faccia, non sono una città di 80.000 abitanti. No, va bene, ma mi faccia fare la domanda. Sono quelle che sono. Senatore, mi faccia fare la domanda, perché se no, se non mi fa fare la domanda, non si può capire neanche la risposta. Se in Umbria e in Molise hanno restituito al 40%, gli aquilani si chiedono perché noi dobbiamo restituire al 100%. Ma scusi, questo noi abbiamo adottato, il governo ha adottato una politica, diciamo, chiamiamola così, senza volerla svenire, del carciofo, nel senso che in condizioni di difficoltà finanziarie, come sono note a tutti, per tanti motivi, ultimo esempio è questa manovra finanziaria assolutamente pesante, unica, che richiama forse quelle di vent'anni fa, quella di Amato di vent'anni fa, che fu altrettanto dura. Cioè, i tempi sono questi, dire, questa situazione ha indotto il governo a seguire una politica dei piccoli passi, perché non è possibile in prospettiva prevedere degli oneri sulla finanza pubblica se non si verifica di volta in volta, di tappa in tappa, la situazione dei bilanci pubblici. E infatti si sta verificando e si sta andando avanti in questa direzione. Io sono convinto che una riduzione delle tasse ci sarà, però che occorre aspettare che si concluda l'anno finanziario per vedere se c'è veramente, anche da quest'ultima manovra, una riduzione del carico sui bilanci pubblici, in modo da poter venire incontro alle esigenze degli aquilani. Allora, non solo il bicchiere mezzo vuoto, ma anche la politica del carciofo, per tre quarti pieno. Va bene, senatore, io intanto voglio salutare Eugenio Carlomagno, ci sta ascoltando. Buongiorno Carlomagno. Direttore dell'Accademia delle Belle Arti e tra gli animatori del cosiddetto popolo delle carriole. Da lei devo arrivare subito dopo le informazioni sul traffico. Parto proprio da lei. Non so, c'è chi mi scrive: prende spunto dal giornale Libero, è pazzesco. Non posso prendere spunto dal giornale Libero per fare una domanda. Se non c'era Sky sareste in silenzio, e poi sono pessimo, di brutto, mi scrive anche questo ascoltatore. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, c'è da dire che tra l'altro il 61% di chi sta votando su Radio24.it dice sì, gli aquilani hanno diritto, i terremotati hanno diritto a protestare, fanno bene a manifestare. Allora, Eugenio Carlomagno, era anche lei a Roma ieri alla manifestazione? Io ero a Roma e ho fatto parte della delegazione che è stata ricevuta dal presidente Schifani. Ah, perfetto. Credo che anche il senatore Tancredi ha dato ragione, non ai terremotati, alle nostre problematiche, che non sono solo le tasse. No, però guardi, c'è un eco fastidioso. No, senatore Tancredi, non so, noi abbiamo l'onorevole Lolli e il senatore Pastore. Il senatore Tancredi è un altro che... Il senatore Tancredi faceva parte anche lui della delegazione. Perfetto. Senatore del PDL. Quindi ha interloquito anche lui con il presidente Schifani, come tutti noi. Io ho dovuto ricordare al presidente Schifani quello che diceva l'onorevole Lolli, che nel Molise solo l'altro ieri è stato fatto un provvedimento perché i terremotati tra parentesi della provincia di Foggia debbano restituire in 120 gradi il 40%. Ma questo è uno dei problemi. Però voglio dire, cioè, se lì è stato fatto una qualcosa di denunciato anche dall'opinione pubblica, magari fuori dalle righe, qualcuno dice scandalosa, cioè è lì che va rimediata la situazione, no? Cioè, quello è stato un errore. Roma solo per le tasse. Noi siamo venuti perché da 14 mesi abbiamo una città blindata, chiusa. Non siamo riusciti a entrare nel centro storico, non riusciamo a capire quali sono i fondi reali, perché si parla di miliardi, ma su conto corrente non vediamo soldi per spendere affinché possa ripartire la ricostruzione, sia la ricostruzione cosiddetta degli edifici e la ricostruzione della parte economica, che è la parte più preoccupante per noi, in quanto non essendoci l'economia la città sta morendo. E io credo che sia opportuno che tutti gli italiani sappiano che noi siamo grati, e su questo l'abbiamo detto io personalmente al Presidente Schifani, di quello che è stato fatto nell'emergenza. Forse è un esempio che dovremmo portare in giro per il mondo. Hanno fatto in 10 mesi quello che forse era impensabile fare, ma adesso noi chiediamo al Presidente Berlusconi e al Governo che quello che è stato fatto in 10 mesi possa essere fatto in 3-4 anni per ricostruire una delle città più belle d'Italia, una città dove ha 1500 edifici vincolati e forse ha dei monumenti unici al mondo. La domanda che qualcuno dice è se, come dice il senatore Pastore, le aspettative iniziali non siano certo un po' deluse nel ritmo, ma se insomma purtroppo, vista che c'è stata una tragedia, bisogna ricostruire passo dopo passo, un po' più lentamente di quelle che sono le aspettative. Ma voglio ascoltare due ascoltatori. Sabrina da Milano, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Sabrina, buongiorno. Buongiorno a lei, Milan. Io sono un ex remontato del Friuli Venezia Giulia. Sì. Gli direi che gli aquilani rispetto a noi hanno avuto molto più fortuna, sicuramente. Noi non abbiamo impiegato 12 mesi per avere qualche struttura fissa per poter andare a vivere, abbiamo avuto le baraccopoli per 10 anni, quindi direi che mi rendo conto che non è una cosa semplice, facile da vivere, ma bisogna anche darsi dei tempi. Come diceva il senatore Pastore, forse le attese sono un po' troppe in poco tempo. Oh, questo, onorevole Lolli, molti messaggi ci arrivano anche su questo, a dire in Friuli ci siamo rimboccati le maniche, no? E quello è stato vero, è anche un'esperienza tragica, è nata la Protezione Civile lì. Ecco, non sono aspettative troppo esigenti quelle che avete, per carità tutte legittime, voglio dire, nel senso che tutta l'Italia è vicino a quello che è capitato, è vicino a voi, però anche l'ascoltatrice dice forse bisogna avere un attimo di pazienza in più. Io vi prego l'ascoltatrice del Friuli, prego tutti quanti di venire ad Aquila a farci una camminata. Così forse uno si rende conto di come stiamo messi ad Aquila. Qui non è in discussione la gratitudine verso il paese per il tanto che è stato fatto. Qui il problema è che l'Italia ha sulla sua carta geografica un buco che è come una nuova Pompei, ma stiamo scherzando. A 16 mesi dal sisma noi abbiamo ancora la città piena di macerie e abbiamo il commissario che è il presidente della regione di centrodestra e il vice commissario che è il sindaco dell'Aquila di centrosinistra, quindi la politica proprio non c'entra niente in questo caso e non ce la dobbiamo mettere per forza in mezzo, i quali tutti e due si lagnano e denunciano il fatto che non esistono le risorse necessarie per avviare questa ricostruzione. Io vi prego, io capisco che ognuno debba fare un po' di propaganda e capisco che si è voluto descrivere questo terremoto come un grande esempio di efficienza. Lasciamo perdere, diciamo che le cose stanno così. Ma io vi prego, venitevi a fare una camminata, ci sono 50.000 persone che stanno fuori dalla loro casa, una parte di questi, che sono 14.000, stanno nelle famose case del progetto Casa, no? Che sono alloggi, per carità, belli, decorosi, grosso modo di 40-50 metri quadrati, sì. gli altri 35.000 stanno o in alberghi dislocati a 100 chilometri oppure stanno in situazioni di fortuna che si sono dovuti trovare. Lei per esempio, lei onorevole Lolli, contesta un certo tipo di informazione, ancora i giornali oggi a vedere per esempio cosa ha fatto il TG1 che ieri alle 13.30 non ha dato la notizia, contesta dire per esempio anche quando il sindaco Cialente ha invitato tutti i direttori all'Aquila, alcuni sono andati, altri no, secondo lei c'è una censura da parte di qualcuno sull'informazione? Io per mia natura sono mai una persona che tende a scaricare e semplificare i problemi. Effettivamente però è passato un messaggio che anche la signora di prima interpreta, cioè il messaggio che ad Aquila è stato tantissimo e che siamo degli ingrati. Io vi assicuro che non è così. L'unico modo che ho per farvi cercare di capire come stanno le cose è chiedervi veniteci ad Aquila, fatevi una passeggiata e rendetevi conto e chiedetevi se un grande paese come l'Italia può andare avanti, può andare in Europa, può andare nel mondo e tenersi un buco sulla carta geografica di quel genere. Non è che dice ci vuole, siamo impazienti, ci rendiamo tutti conto che è necessario un certo gradualismo nella ricostruzione, ma qui non è avviato niente. Allora. Questa è la realtà, non solo, mi scusi. Sì. Poi, guardi, lei prima ha detto una cosa, la voglio precisare, non è che è stato fatto una schifezza in Molise. Tutti i terremoti sono andati così. Ah, vabbè, hanno avuto delle defiscalizzazioni molto più forti. Si parlava del Molise, del Molise, del famoso cratere che è stato allargato. Ma il nome delle Marche sono rimasti 12 anni. E sapete chi è il governo che ha chiesto, di ridare solo il 40%? È questo governo in carica. L'ho fatto l'anno scorso. Quindi dice quindi questo è il trattamento intollerabilmente. Perché con l'Aquila no? Giuseppe da Milano, buongiorno, un altro ascoltatore. Sì, buongiorno, grazie per farmi parlare. Ascolti, io volevo dire due cose. La prima cosa è a quella signora che ha telefonato, che io personalmente non credo che sia una terremotata del Friuli. Perché una vera terremotata, non fa certe domande a Radio 24, perché se fosse stata una vera terremotata sarebbe andato magari anche all'Aquila a contestare con gli aquilani, prima cosa. Seconda cosa, volevo dire qualcosa al senatore del PDL. Qui parlava di malinformazione, che questo decreto dell'allungamento delle rate, rientrare nelle spese era già stato fatto e c'era malinformazione. Allora, prima cosa, la malinformazione la dà il governo, perché se fanno un decreto o sperano di fare un decreto lo dicono subito. Ma no, capisce? E poi, dopo che hanno questi poveri aquilani hanno ricevuto tramite proteste, legnate e manganellate in testa questa loro richiesta, vengono fuori dicendo che c'è malinformazione che loro avevano già fatto prima. Tutte balle. Ecco, senatore Pastore, risponda all'ascoltatore sul fatto. Ma io vorrei dire due parole sulla manifestazione di ieri, che naturalmente è tutto legittimo, anche comprensibile. I rischi sono due, secondo me. Che si diffonda una idea, in Italia, di quasi di ingratitudine, come diceva Lolli, o comunque di mancanza di riconoscenza, per cui ci possa essere un allontanamento, direi, di disponibilità nei confronti degli aquilani. E questo sarebbe un danno gravissimo, ed io lo dico da abruzzese perché avverto anche le reazioni che ci possono essere a queste vicende. Secondo, sulla manifestazione in sé, io personalmente credo che sia stata male organizzata o per nulla organizzata, perché non si possono portare, si diceva, 40 pullman o 30 o 50 pullman o 60 pullman in una città come Roma e pensare che un corteo di 4, 5, 6.000, 2.000 persone possa transitare per Roma senza dei controlli di polizia, cosa che è sempre avvenuta e che sempre avverrà. Se c'è un cordone che sbarra un passaggio sarà inopportuno quel cordone, però è evidente che la polizia non può subire delle sollecitazioni a Roma ad aprire gli spazi e di fronte a delle spinte, a delle situazioni di questo tipo non può che reagire con la forza. Questo è un esempio che abbiamo avuto in tantissime situazioni dove si è manifestato anche per questioni meno drammatiche. Ci voleva un servizio d'ordine. Quando marcia un sindaco con dei rappresentanti istituzionali in capo a un corteo di, ripeto, 5.000 persone, si dice, per protestare legittimamente di fronte al Parlamento, è evidente che questo richiede un minimo di organizzazione per impedire che degli infiltrati o degli scalmanati che ci possono essere in buona fede, ma sempre scalmanati, possono compiere azioni. Va bene, senatore, tipo. Io mi devo fermare, devo ringraziare tutti. A me l'idea, comunque, l'immagine di terremotati che erano a protestare per qualcosa legittimo o meno è finita a manganellate, è un'immagine che non piace, ma voglio dire, insomma, lei dice, come ha detto il questore di Roma, c'erano forse anche dei faccino rossi. Ci dobbiamo fermare qui. Domani c'è sciopero e dunque non ci sentirete. C'è la giornata di blackout. Saluto tutti. Oscar Giannino, adesso a lui la linea. Sara Sprefico in relazione con Peter Pescapè in regia. Ci sentiamo lunedì.